Siamo con Sabrina Perucca, direttrice della 23ª edizione di Romix, alla Fiera di Roma dal 5 all'8 aprile. Sabrina, benvenuta. Ci Grazie mille, un saluto a tutti voi, ciao. racconti un po', intanto facciamo un po' di storia, raccontiamo un po' come è nata e come si è sviluppata Romix. Sì, Romix nasce nel 2001, quindi ormai sono tanti anni, in Fiera di Roma. E pensa che fino al 2013 Romix aveva un'edizione annuale, quindi ci teniamo ogni anno. Poi dal 2013 in poi abbiamo ben due edizioni l'anno, aprile e ottobre. Questo proprio per rispondere anche a una richiesta molto forte che ci è venuta sia dal pubblico, tantissimo, grandissimo pubblico di appassionati, che anche dagli operatori. Quindi adesso siamo due volte l'anno con 200.000 visitatori per edizione. Quindi insomma un bel impatto per la città, dobbiamo dire. Senti, com'è strutturata questa edizione? Allora, abbiamo veramente tante tante proposte. Romix ormai vive su 5 padiglioni, quindi in qualche modo ogni padiglione racconta un mondo. Sapete che si parte, no, dal fumetto, ma poi nel tempo si è arrivati chiaramente al cinema, quindi tutto il cinema di genere, fantasy, supereroistico, un padiglione interamente dedicato ai videogame, un padiglione dedicato ai grandi eventi, quindi il nostro Pala Romix con oltre 3.000 sedute, quindi insomma un grandissimo spazio con grandissimi ospiti. Tieni conto che tra quelli che noi premiamo con i Romix d'oro, che è poi il nostro riconoscimento alla carriera, grandi autori internazionali, avremo il creatore di Occhi di Gatto. Non so se vi ricordate un po' la serie, no? Di Le Tre Ladre, anche legate insomma a una sigla amatissima, Sì. che è Tsukasa Hojo, che pensate è per la prima volta in Italia, quindi verrà poi a raccontare come ha creato Occhi di Gatto, City Hunter e tanti altri suoi personaggi. E accanto a lui abbiamo un'altra grande presenza. Guarda, la prima volta che Romix appunto assegna un Romix d'oro ad un attore, a un interprete, in questo caso è Martin Freeman, che se ricordate è il volto di Bilbo Baggins nell'Hobbit, ma allo stesso tempo è anche Watson di Sherlock, quindi un attore che anche proprio nelle scelte che ha fatto rispetto a noi personaggi interpretati è molto vicino al mood di Romix, al nostro format trasversale. Pensate che lui è anche l'interprete di un film di fantascienza veramente cult, che è Guida Galattica per autostoppisti. Sì. Quindi insomma ci sarà da divertirsi. E poi un grande omaggio al fumetto, in questo caso italiano, romano, perché poi noi a Roma in questo periodo storico abbiamo praticamente i più grandi autori italiani, ma anche internazionali, veramente un periodo ricchissimo, e celebriamo Massimo Rotundo, che è un grande autore, vi faccio solo qualche nome, Tex Brandon, ha lavorato moltissimo anche per il mercato francese, ha lavorato come sketch artist anche per il cinema, quindi Gangs of New York tra le produzioni. Quindi veramente quest'anno tra mostre e grandissimi autori avremo un gran da fare, un gran da vedere, insomma. Senti, si è cominciato con il fumetto, quindi la carta stampata, e considerato che adesso siamo, come dicevi tu, a 5 padiglioni, volevo capire con te qual è il settore che è esploso, in questi ultimi tempi. Guarda, ovviamente i videogame vanno di pari passo, no? Sì. Con la crescita anche poi dei fan del fumetto, nel senso che poi man mano è vero che si ci specializza, quindi c'è chi legge solo il fumetto, chi si avvicina anche al cinema, chi si avvicina al cinema d'animazione, ma allo stesso tempo anche il trade union che fa il videogioco è importante, importantissimo. Quindi ad esempio il padiglione videogioco che quest'anno poi rappresenterà tutti i maggiori brand, quindi chiaramente da Microsoft, Warner, Ubisoft e così via, veramente tantissimi, andranno a presentare poi le novità. Accanto a loro il grande boom è stato anche quello della figura dello youtuber, no? Di cui si è parlato tanto, che sono appunto delle figure che sono diventate delle vere e proprie celebrità, che proprio grazie al fatto che raccontavano come loro stessi giocavano, no? A determinati videogiochi, hanno raggiunto delle cifre impressionanti poi proprio di followers. Quindi in qualche modo Romix rappresenta tutti questi mondi e che sono chiaramente in continuo cambiamento. Anche il mondo del fumetto stesso è cambiato tantissimo in questi ultimi anni, nel senso che il pubblico è diventato ancora più numeroso ma ancora più competente in qualche modo. Quindi ecco ad esempio l'esplosione della graphic novel, no? Che Sì, ha sì. portato anche alla ribalta tantissimi anche nuovi autori italiani e questa è una cosa splendida. E dall'altra parte anche la crescita di tanti autori italiani, in cui diciamo noi abbiamo veramente una formazione di eccellenza in Italia per quanto riguarda le arti creative, questo lo sappiamo, tanti autori italiani che lavorano e sono contesi ad esempio per la Marvel, dalla DC, che sono insomma i creatori di tutti i mondi dei supereroi, quindi Batman, Superman, Uomo Ragno e così via. Quindi ce n'è veramente tanto, guarda. Senti, la fascia d'età più coinvolta da Romix che tu sappia. Allora, guarda, sicuramente la fascia dei giovani tra i 14 e i 25 è molto grande, Sì. ma in realtà anche, poi in realtà si differenziano molto, perché comunque anche dai 25 poi ai 40 abbiamo un'ulteriore fascia che magari è alla ricerca di prodotti, no, diversi. Quindi in effetti con tutto il panorama che c'è dentro Romix ci si differenzia sia per, appunto, per fasce perché poi, e anche per giornate, ad esempio il giovedì e il venerdì, ti posso fare un esempio molto più per gli appassionati collezionisti, magari il sabato e la domenica c'è una presenza maggiore anche di famiglie, quindi in cui si condivide poi la passione, nel senso che mamma e papà possono essere appassionati di un certo tipo di fumetto, magari anche più del passato, e il figlio o la figlia interessati appunto ad esempio a videogiochi o manga, quindi questo è molto interessante perché diventa trasversale anche nel tipo di pubblico. Un'altra curiosità rispetto ai vari mondi, se penso alla robotica, ai supereroi, ai mondi alieni, all'horror, ecco, in questi ultimi tempi l'immaginario, dove si sta direzionando? L'horror è tornato molto Sì. in come dire, vorrei dire di moda, anche se non è proprio, però sicuramente è così. Ad esempio lo scorso anno, no, una scorsa edizione, c'è stata una grandissima attenzione alla proposta, no, che ricordava It e comunque tutte le grandi uscite sia dei film ma anche dei videogiochi horror, ma ti posso dire anche prodotti da case editrici, case di produzione indipendenti. Quindi è un elemento che continua a essere molto attraente e un po' facendo seguito a quello che è stato anche il grande momento, no, degli zombie, che Sì, sono sempre sì. attuali, assolutamente, perché tra The Walking Dead, che comunque è il fumetto cult con la serie e così via, ma c'è tutto anche un tipo di saggistica che continua a esaminare, no, questo ritorno in qualche modo degli zombie nella letteratura di fumetto e di cinema moderna, che si unisce comunque proprio all'horror classico che sta vivendo un grande nuovo momento. Una nuova stagione. Yeah. Sabrina, io ti ringrazio. Allora ricordiamo la 23ª edizione di Romix, la Fiera di Roma dal 5 all'8 aprile. Un ringraziamento e un saluto alla direttrice Sabrina Perucca. Sabrina, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crevi il lupo, un grande saluto a tutti voi, vi aspetto.